carga en mis tuyas y suturi. La prima e tutti mi fa immaginare, ma campa la farina di nocchioni. Poi mi porta mi spia se mi voglio maritare, io già rispondo una parola onesta, ma padre con mamma ci son patruna. Pace con ta madre si cavono, li to parenti a piacere l'anno. Allora fatta avanti mulinaro, che la risposta mia certa e sicura. Allora fatta avanti mulinaro, che la risposta mia certa e sicura. Quando mi vida la timpa pintare, mi scarica e mi stuia l'isodura. Allora